Hola. Attenzione 10, attenzione 12, c'è qualcuno? Allora, miau, miau, la Zubevia, la Zubevia, a e i o u, sati nomo dua, a e i o u.